Lottomatica.it. 10 all'8. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Probabilità di vincita e regolamento su 10allotto.it e agenzia doganemonopoli.gov.it. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Vertice europeo di Tallinn sul digitale in Estonia, web tax, Italia, Francia, Germania e Spagna pronte ad andare avanti da sole se non c'è accordo, ma si discute anche del futuro dell'Europa. La risposta dell'UE deve essere ambiziosa, dice il premier Gentiloni. A Torino, il primo dei cortei contro il G7 lavoro, scontri fra forze dell'ordine e studenti con la polizia che ha effettuato una carica di alleggerimento. Un manifestante è stato fermato. L'impegno del governo per la famiglia: per il 2017-2018 sono stati già stanziati circa 5 miliardi l'anno per la famiglia e le politiche per l'inclusione sociale, sottolinea il ministro Padoan. E nella prossima manovra si può fare di più e meglio in termini di risorse e di allocazione. Rallenta l'inflazione in settembre, ma raddoppiano i rincari sul carrello della spesa. Via gli immigrati dalle case popolari, ma ad entrare una famiglia italiana, lei nera, originaria dell'Etiopia. Interrogata questa mattina, le quattro persone arrestate vicino a Forza Nuova, il PM chiede la convalida degli arresti. E stamattina nuova giornata difficile per chi ha dovuto muoversi a Roma per lo sciopero del trasporto pubblico finito poco fa, ferme le metropolitane, bus a singhiozzo. Qualche miglioramento c'è stato, ma resta critica la qualità dell'aria nelle città italiane. L'Italia, con oltre 90.000 morti prematuri e 1.500 decessi per milione di abitanti, è maglia nera fra i grandi paesi europei per l'inquinamento atmosferico. Eccoci qua, effetto giorno at radio24.it, la nostra pagina Facebook la conoscete, siamo in diretta su Facebook, l'account Twitter lo conoscete anche quello, non conoscete invece il fatto che oggi non c'è Simone Spezia, ma ci sono io, Maria Piera Ceci. Allora, ripartiamo dal vertice informale dei capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea che si sta svolgendo a Tallinn, dedicato all'economia digitale e alla cybersicurezza. A margine però, naturalmente, come sempre accade in questi casi, molti gli incontri bilaterali per fare il punto sul futuro dell'Europa, a pochi giorni peraltro dal discorso del presidente francese Macron. Allora ci colleghiamo in diretta con Tallinn e con Beda Romano. Beda, buongiorno. Buongiorno. Allora, come procedono i lavori, che peraltro in realtà non sono forse neanche iniziati del tutto, no? In realtà i lavori sono iniziati, oggi si parla, come dicevate voi, di economia digitale, di rivoluzione digitale, e i 28 vogliono cercare di trovare una strategia comune su questo fronte. È un vertice informale, quindi non bisogna aspettarsi decisioni formali da parte dei paesi membri. Ieri sera invece si è svolta una cena informale dedicata al futuro dell'Unione Europea, ed è stato deciso che il Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, nelle prossime 2 settimane cercherà di fare il punto della situazione paese per paese, per avere al prossimo vertice europeo di fine ottobre una specie di scadenzario delle riforme per il futuro dell'Unione europea. Dobbiamo tener conto del fatto che le ultime settimane sono state segnate da alcuni importanti discorsi dell'establishment comunitario. Prima il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker a Strasburgo davanti al Parlamento europeo, e questa settimana alla Sorbona a Parigi il discorso del presidente francese Emmanuel Macron. Mm-hmm. L'obiettivo di Donald Tusk è quello di tirare un po' le fila di questi discorsi e, dopo aver sentito i capi di Stato e di Governo dei Paesi membri, cercare di presentare una qualche forma di programma da qui ai prossimi anni. Bene, grazie a Beda Romano, allora, che ritroveremo naturalmente nel corso della giornata per raccontarci questo vertice. Ora sentiamo invece le parole del premier Gentiloni prima dell'inizio dei lavori questa mattina. Di una integrazione maggiore sul piano economico, bilancio comune, evoluzione del fondo europeo. Naturalmente quello che interessa a noi è che tutte queste proposte di architettura sulla economia europea abbiano un'ispirazione di fondo. L'ispirazione di fondo deve essere il rilancio di politiche di espansione e di crescita. Non ci interessa tanto la discussione sui modelli, ci interessa che l'Unione prenda atto del fatto che siamo in un diverso contesto che vede migliori numeri di crescita e quindi che deve incoraggiare politiche espansive. Ecco, queste le parole del Premier Gentiloni. Fra poco noi torneremo sul vertice di Tallinn, in particolare con il nostro Enrico Pagliarini, che è l'esperto, come sapete, di questioni digitali. Appunto, approfondiremo i temi relativi all'economia digitale, alla cybersicurezza, al centro di questo vertice europeo. E noi ci spostiamo dal vertice europeo di Tallinn a quello sul lavoro a Torino. È un vertice, è un G7 quello di Torino. Stamattina il primo dei cortei contro i lavori del G7, si registrano i primi scontri. Ci colleghiamo in diretta con il collega Marco Panzarella, che si trova lì a Torino. Marco, com'è la situazione adesso? Allora, ciao, la situazione è terminata proprio in questo istante, il corteo degli studenti. La notizia è che c'è un secondo fermato dopo il ragazzo che era stato appunto bloccato stamattina in corso Vittorio Emanuele dopo una carica respinta dalla polizia. Gli studenti hanno occupato la sede della facoltà di lettere e filosofia Palazzo Nuovo, che resterà aperta fino a notte e sarà un po' la base logistica per i prossimi movimenti. La prossima manifestazione è in programma alle 6 del pomeriggio. Un corteo dei lavoratori in Barriera di Milano, uno dei quartieri, diciamo, dove il tasso di immigrazione è molto elevato e c'è un problema, diciamo, occupazionale serio. Ecco, ma che cosa è successo esattamente questa mattina? Come si è arrivato ai due fermi? Cosa è successo? Gli studenti, insieme ai Notav, che li hanno raggiunti, insomma, a Porta Nuova, hanno tentato più volte di introdursi nella zona rossa, quella dove c'è l'hotel che ospita i ministri. Ovviamente la quella polizia, proibita, naturalmente. Quella proibita, sì. E quindi sono stati bloccati più volte, però è cresciuta la tensione rispetto alla manifestazione abbastanza tranquilla di ieri sera, in vista di domani, dove, quando è previsto l'ultimo grande corteo, ci saranno tutte le forze antagoniste. E c'è molta preoccupazione. Grazie Marco, anche con te l'appuntamento è per i prossimi GR24, per continuare a monitorare quanto sta accadendo a Torino. Noi invece ci spostiamo sulla pagina economica, perché la produzione industriale a settembre è cresciuta dell'1% su agosto, più 0,2% ad agosto invece su luglio. Lo rileva il Centro Studi di Confindustria, spiegando che nel terzo trimestre 2017 si registra un incremento congiunturale dell'1,3%. Stamattina sono anche arrivati i dati Istat sull'inflazione, che frena a settembre. Continua l'altalena dei prezzi al consumo per gli italiani. Dopo la piccola fiammata di agosto, le stime dell'Istat per il mese di settembre parlano di un nuovo rallentamento dell'inflazione, cresciuta dell'1,1% rispetto a un anno fa, contro una crescita dell'1,2% registrata in agosto. Complici anche alcuni fattori stagionali, come le vacanze e l'utilizzo elevato di condizionatori nei mesi estivi, in settembre i prezzi sono diminuiti dello 0,3% rispetto al mese precedente, con un calo più deciso per i servizi relativi ai trasporti, i beni energetici regolamentati, i servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. In poche parole, per tutti quei prodotti e servizi legati alla stagione delle vacanze e dei viaggi. Viceversa, in settembre si registra addirittura un raddoppio dei rincari per i prodotti che riempiono il cosiddetto carrello della spesa, ovvero i beni alimentari, quelli per la cura della casa e della persona, che aumentano dello 0,5% su base mensile e dell'1,2% su base annua, contro l'incremento dello 0,6% di agosto. Un'accelerazione, spiegano gli esperti dell'Istat, dovuta al rialzo dei prezzi dei beni alimentari non lavorati e in particolare dei vegetali freschi. Nonostante il rallentamento della crescita, su base annua i prezzi risultano in aumento nella maggior parte delle voci di spesa degli italiani, che si trovano a spendere di più soprattutto per trasporti, servizi ricettivi e di ristorazione. Giovanna Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'impegno del governo per la famiglia, stamattina le parole del ministro dell'economia Padoan alla terza conferenza sulla famiglia. Più risorse e manovra contro la povertà. Il governo punta ad ampliare il più possibile i fondi a disposizione con l'obiettivo di fare dell'inclusione sociale uno dei capisaldi della sua politica economica. L'intenzione è stata ribadita questa mattina dal ministro dell'economia Padoan alla terza conferenza nazionale sulla famiglia. La legge sulla povertà è il suo principale strumento, il reddito di inclusione, ha detto il ministro, ha mobilitato risorse importanti ma non sufficienti, che devono essere alimentate con la prossima manovra per espanderne gradualmente la copertura. Per il 2017-2018 2018, ha ricordato, sono stati già stanziati circa 5 miliardi per le famiglie e le politiche per l'inclusione sociale, ma nella prossima manovra si può fare di più. Tuttavia ha avvertito Padoan, la situazione che deve gestire l'Italia non è facile, il sentiero come noto è stretto, occorre continuare il consolidamento dei conti, sterilizzare le clausole e le risorse per la crescita sono limitate, ma di qui la necessità di gestirle in modo efficace. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Verso le elezioni regionali siciliane del 5 novembre, la protesta del fratello di Peppino Impastato, ucciso dalla mafia. I 100 passi, quelli che separavano la casa della famiglia Impastato con l'abitazione di Gaetano Badalamenti, non possono essere oggetto di un marketing politico a fini elettorali, come la lista guidata da Claudio Fava in Sicilia. Me lo dice Giovanni Impastato, fratello di Peppino, al termine di una serata milanese. Da quel lontano 9 maggio 1978, il giorno in cui la mafia uccise il direttore di Radio Out di Cinisi, Giovanni, la compianta madre Felicia Bottolotta, un drappello di amici e conoscenti, difende con le unghie la memoria di Peppino. Giovanni gira in lungo e in largo il nostro paese, senza sosta, senza interessi, se non quelli di difendere la figura di suo fratello, ancora attuale. La casa di Peppino, Giovanni e Felicia resta un luogo di memoria aperto, dove ogni giorno decine di persone ricordano il sacrificio di chi ha affrontato a viso aperto le cosche. A Giovanni non è proprio piaciuto l'utilizzo del nome del film 100 passi di Marco Tullio Giordana, sceneggiato proprio da Claudio Fava, per la lista di sinistra che corre in questi giorni alle elezioni regionali siciliane. Sembra questione di lana caprina, ma quei 100 passi non appartengono a qualcuno in particolare. I 100 passi appartengono a tutti quelli che si battono ancora oggi per una società più pulita, etica e trasparente, ripulita da mafia e corruzione, proprio come voleva Peppino. E questa era l'analisi del nostro Daniele Biacchessi in avvicinamento alle elezioni regionali siciliane. Andiamo a Roma all'indomani della richiesta di rinvio a giudizio per la sindaca Virginia Raggi. Dopo la richiesta di rinvio a giudizio per le nomine in Campidoglio, il Movimento 5 Stelle fa quadrato attorno a Virginia Raggi. La linea dettata dai vertici è quella di sottolineare la notizia positiva dell'archiviazione delle accuse di abuso d'ufficio, lasciando invece in secondo piano il rischio di un processo per falso ideologico. Un'altra accusa destinata a cadere assicura il pentastellato Crimi, ospite di 24 Mattino. Sicuramente sarà anche questa una bolla di sapone, quindi siamo abbastanza fiduciosi. Il nuovo codice etico dei 5 Stelle, varato tra mille polemiche, mette comunque al sicuro Virginia Raggi dal rischio di una sospensione automatica in caso di rinvio a giudizio, ma anche di una condanna in primo grado. Ormai è evidente che le regole si adattano per gli amici e si applicano per i nemici, commenta polemico il sindaco di Parma Pizzarotti, sospeso e poi uscito dal Movimento 5 Stelle dopo aver ricevuto un avviso di garanzia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ed ora torniamo sulla brutta storia al quartiere del Trullo a Roma, dove ieri, ricorderete, c'è stata una sorta di rivolta contro l'assegnazione di una casa popolare ad una famiglia italiana, ma con la donna di origini etiopi. Fra poco avremo ai nostri microfoni il direttore generale dell'ATER, che ci racconterà un po' che cosa è accaduto e soprattutto perché accadono queste cose. Insomma, chiederemo dei chiarimenti. Sentiamo però le ultime dalla cronaca. La Procura di Roma ha chiesto al GIP la convalida degli arresti per Giulio Castellino, leader del movimento Roma e Romani, ala estremista di Forza Nuova, e altri tre militanti. Nei loro confronti vengono contestati i reati di lesioni, resistenza e percosse a pubblico ufficiale per gli scontri avvenuti ieri con le forze dell'ordine nella zona periferica del Trullo a Roma, dove la polizia municipale era intervenuta per sgomberare una casa popolare da affidare a una famiglia di migranti, si era detto in un primo tempo. In realtà la famiglia è italiana. Papà Massimo, impiegato in un'impresa di pulizie di origini calabresi, e mamma Clelia, oltre ai due figli. Lei è cittadina italiana a tutti gli effetti, papà italiano, fratello nell'esercito italiano, ma mamma etiope e quindi la pelle è scura. Tanto basta. Ieri è scattato il raid. Ha iniziato la protesta, lancio di sassi, insulti, urla, scontri. La tensione è salita, tre agenti sono rimasti feriti e quattro militanti arrestati. La famiglia è fuggita fra gli insulti. Chiedano scusa al mese sto schifo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E noi ci fermiamo per qualche istante, Strade in diretta, poi torniamo insieme. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Effetto Giorno. Il vertice europeo di Tallinn sul digitale in Estonia, Web Tax, Italia, Francia, Germania e Spagna pronte ad andare avanti da sole se non c'è accordo, ma si discute anche del futuro dell'Europa. La risposta dell'Unione Europea deve essere ambiziosa, dice il Premier Gentiloni. A Torino il primo dei cortei contro il G7 lavoro, scontri fra forze dell'ordine e studenti con la polizia che ha effettuato una carica di alleggerimento. Due i manifestanti fermati. L'impegno del governo per la famiglia per il 2017-2018 sono stati già stanziati circa 5 miliardi l'anno per la famiglia e le politiche per l'inclusione sociale, sottolinea il ministro Padoan. Rallenta l'inflazione in settembre, più 1,1%, ma raddoppiano i rincari sul carrello della spesa. Via gli immigrati dalle case popolari, ma ad entrare una famiglia italiana, lei nera originaria dell'Etiopia. Interrogate questa mattina le quattro persone arrestate, vicino a Forza Nuova. Il PM chiede la convalida degli arresti. Qualche miglioramento c'è stato, ma resta critica la qualità dell'aria nelle città italiane. L'Italia, con oltre 90.000 morti prematuri e 1.500 decessi per milione di abitanti, è maglia nera fra i grandi paesi europei per l'inquinamento atmosferico. Ed eccoci tornati in studio, ve l'avevo promesso, ci ha raggiunto il nostro Enrico Pagliarini a cui chiediamo di spiegarci un po' meglio quali sono i temi oggi all'ordine del giorno al vertice europeo di Tallinn. Dicevamo, web tax e cybersicurezza sono i due punti cardine, ma verranno fuori delle decisioni, verranno fuori delle o come spesso accade in questi vertici, dichiarazioni di intenti? Esatto, buongiorno, molto probabilmente no, perché i due problemi sono estremamente complessi. Allora, partiamo dal cybercrime. Cybercrime è un fenomeno in continua e pesantissima crescita, è un fenomeno che non ha confini, mentre le forze dell'ordine lavorano su base di confini e regole che sono diverse. Quindi uno degli obiettivi è cercare di condividere informazioni e collaborare sempre più fra stati, almeno a livello europeo, ma diciamo che non sarebbe nemmeno sufficiente, bisognerebbe collaborare a livello mondiale. Ci sono tre fenomeni da arrestare. Il primo è il cybercrime, quindi il crimine, la criminalità che punta sempre più a rubare soldi online. Primo. Il secondo è spionaggio industriale. Questo è un gravissimo problema. Poi in definitiva è sempre rubare soldi, perché rubi proprietà intellettuale, quindi certo, fai business e concorrenza sleale. No. E poi c'è lo spionaggio degli stati. E quello è un livello diverso, però è un altro problema molto serio. E vediamo in questo periodo la questione Russia-Stati esatto. Uniti. Esatto, questi sono i livelli su cui si sta lavorando. È molto complesso, ci si sta lavorando da molto tempo, però... Quale potrebbe essere un punto d'accordo, comunque un punto da cui iniziare un lavoro? La trasformazione di accordi che esistono già, o l'Europol che già esiste, quindi una sorta di coordinamento a livello europeo che condivida molte più informazioni, perché se no accade quello che abbiamo visto con i terroristi, ad esempio, che alcune forze di polizia in alcuni stati conoscevano quei terroristi ma non avevano comunicato. E ovviamente in tutto ciò il digitale aiuta, perché la condivisione delle informazioni grazie alle tecnologie è molto più facile, molto più semplice, però bisogna mettersi d'accordo e anche trovare delle certo. regole comuni, no? E invece poi l'altra questione, poi, quella esatto. della web tax. Allora, qui anche questo problema ormai antico, possiamo dire, moderno ma antico. Esatto, però come il cybercrime, comunque la cybersicurezza in generale, sta crescendo sempre di più questo problema. Dunque, partiamo da un documento, perché almeno questa è una base di discussione, che è stato firmato e presentato da Italia, Francia, Germania e Spagna, che hanno preparato questo documento che c'è stato già stato presentato all'Ecofin per trovare una soluzione per tassare in modo efficace tutta quella che va sotto il nome di economia digitale. Allora, il problema nasce dal modo di operare delle grandi aziende internet che hanno residenza fiscale in paesi a tassazione favorevole, come ad esempio l'Irlanda. E che cosa succede? Fatturano da queste nazioni vendendo beni e soprattutto servizi digitali in altre nazioni, e l'obiettivo è quello di tassare questo servizio nella nazione dalla quale avviene l'acquisto. Ci sono milioni per non parlare di miliardi di euro che sfuggono alla tassazione degli stati. Su questo c'è ovviamente grande armonia fra i governi, perché evidentemente... Allora, molti si dicono d'accordo, però ovviamente tutti gli stati europei che hanno la residenza di queste società. Allora, uno dei problemi più grossi è quello di andare contro uno dei principi fondanti dell'Unione Europea. Di solito si lavora sulla residenza fiscale delle società, la famosa stabile organizzazione. In questi casi è abbastanza semplice per queste aziende dimostrare che non hanno una stabile organizzazione. Poi in realtà, se si fanno delle indagini, si va a vedere che almeno quelle più grosse la stabile organizzazione ce l'hanno, però essendo servizio digitale, pensiamo, giusto per farci capire, la pubblicità digitale, un film comprato online che viene fatturato da un altro paese, ma io lo usufruisco e lo utilizzo in Italia. Lo compro in Italia, esatto. E ne usufruisco. Allora, in ci Italia. Sono varie ipotesi, ma anche diciamo abbastanza complesse poi da mettere in atto. Ad esempio, quella di aggredire i fatturati e non gli utili. Certo. Perché poi con un gioco di scatole cinesi che coinvolgono anche paesi extraeuropei, queste società a volte riescono. E non parlo solo delle 3, 4, 5 più grandi, parlo anche di molte altre società, medie società che sono, non so se dire ahimè, molto spesso americane. E qui tocchiamo un altro capitolo, cioè quello della diplomazia, perché se tu attacchi pesantemente queste società, gli Stati Uniti potrebbero per ritorsione applicare tasse, che ne so, sulla pasta. Certo. Quindi crea una sorta di guerra commerciale. Tant'è che il ministro Padoan ha più volte detto che è una questione molto complicata. Quindi però non hanno trovato di certo la soluzione, non la troveranno a Tallinn, ma sì. Vediamo insomma che cosa ne verrà fuori. Però, lo so, Enrico, che tu vorresti parlare altri 10 minuti. No, ma dico una frase. La cosa positiva è che ci sia consapevolezza e si stia cercando di trovare il bandolo della matassa. Quantomeno. Grazie. Grazie al nostro espertone Enrico Pagliarini. E noi andiamo su tutt'altro argomento, rientriamo in Italia, andiamo in particolare a Carpiano, a sud di Milano, perché c'è stato questo sciopero dei corrieri SDA con ripercussioni pesantissime sulle consegne di oltre 100.000 pacchi, ormai in ritardo da giorni, perché appunto continuano questi scioperi. Adesso cercheremo di capire meglio il motivo. Lo facciamo con Paolo Rangoni, amministratore delegato di SDA. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere qua. Ci aiuti un po' a capire. Intanto non sono suoi dipendenti, lo diciamo subito perché così sgombriamo il terreno da un possibile misunderstanding. Ovviamente non sono vostri dipendenti, ma che cosa sta succedendo? Sì, la buona precisazione, non parliamo di corrieri che sono, diciamo, quelli che guidano i furgoncini, ma sono facchini che lavorano all'interno dei depositi. Sono due ruoli diversi. Quindi sono quelli che trasportano, che smistano i pacchi. Smistano i pacchi lì in sede, esatto. Diciamo, ok. In depositi dove giungono tipicamente ogni notte, ogni giorno, più di 100.000 pacchi al giorno in ciascuno di questi grandi siti, e vengono smistati per diverse destinazioni d'Italia. Chiaro. Macchinari che smistano i pacchi, o prendono i pacchi che arrivano da una destinazione e vengono smistati per chiamiamoli facchini. E perché stanno protestando da 12 giorni? E anche di più, purtroppo, praticamente c'è stato un cambio appalto al 10 di settembre, cambio appalto che è stato accettato da una delle due sigle che era presenti sul sito, perché abbiamo due sigle sindacali, entrambi sindacati di base, delle 300 persone più o meno che lavorano sul sito. Il sito era già in sciopero da una settimana, quindi il cambio di fornitore è stato motivato anche legato alle problematiche di gestione del sito che erano frequenti, ed è stato fatto nell'interesse dei lavoratori, perché c'erano problematiche legate al potenziale non pagamento di stipendi e di contributi, e quindi abbiamo ritenuto a scadenza di contratto fondamentale per garantire nel tempo la sicurezza sia del lavoro che del salario ai lavoratori di selezionare un fornitore diverso. Questo cambio fornitore è stato accettato da una parte significativa, due terzi dei lavoratori, un terzo dei lavoratori non lo ha accettato, hanno chiesto condizioni assolutamente improponibili, come per esempio il ritorno al fornitore precedente. Che questo è impossibile ormai, certo. E da 15 giorni stanno bloccando le attività su questo sito, che quindi è bloccato da 15 giorni, e hanno creato difficoltà e scioperi di solidarietà anche nel resto d'Italia. Ma voi interloquite con questa azienda che gestisce i facchini? Perché certo, ovviamente dovete dialogare, dovete insomma dovete venirne ovviamente fuori insieme poi alla fine da questa storia. Come se ne viene fuori? Allora, il rapporto di lavoro ovviamente è tra datori di lavoro e lavoratori, ma noi essendo committenti ovviamente siamo in primis interessati che questo si risolva per le performance dell'azienda, ma poi in generale evidentemente anche perché sono contratti d'appalto di cui noi siamo solidalmente responsabili, quindi se il fornitore non dovesse... E quindi che cosa gli vogliamo rispondere a questi lavoratori? Perché bisognerà allora, pur sbloccare la situazione. Allora, con l'aiuto della prefettura ha accettato un tavolo ieri a Bologna che con quale è stato siglato un accordo tra il fornitore di Bologna, che non è impattato da questa storia, ma visto che i facchini comunque avevano fatto sciopero di solidarietà anche a Bologna, chiaramente ci sono stati problemi importanti anche lì. Quindi c'è stato questo primo accordo ieri per definire le modalità di rientro al lavoro su Bologna. Quindi se non altro vi siete messi intorno a un tavolo, mi sembra di capire, questa è la notizia. Sì. Il prefetto di Milano ha convocato, questa è l'altra notizia di oggi, il prefetto di Milano ha convocato un equivalente tavolo per lunedì a Milano. Quello che noi abbiamo chiesto, perché ci sembra doveroso, visto che si tratta di un comportamento illegale, è che nel frattempo vengano rimossi i picchetti che impediscono ai 70.000 pacchi che sono presenti nel sito da 2 settimane di poter essere distribuiti. Quindi chiederemo che prima di lunedì ci venga consentito di accedere al sito per riuscire a portare via smistare questi pacchi, trovarci lunedì in una situazione perlomeno non di illegalità. Chiarissimo, grazie all'amministratore delegato di SDA Paolo Rangoni, abbiamo capito un po' meglio di che cosa stiamo parlando a proposito della protesta dei facchini a Capriano, a sud di Milano. Ci spostiamo e andiamo molto lontano perché andiamo a Barcellona per collegarci con il nostro Mario Magarò. Siamo ormai a 48 ore dal referendum per l'indipendenza catalana. Mario, quali sono le novità di giornata? Buongiorno da Barcellona. Qui si è da poco conclusa una riunione, una conferenza stampa del governo catalano avente ad oggetto l'organizzazione del referendum. Sono stati snocciolati dati importanti. In primis saranno aperti 2.315 collegi elettorali per 6.242 seggi elettorali. Si voterà domenica dalle 9 di mattina alle 8 di sera. Il governo catalano si appoggerà, conterà con l'aiuto di 7.235 volontari su oltre 50.000 che si erano offerti appunto come volontari. Questo però è quello che assicura, diciamo, il governo catalano, perché insomma poi bisognerà vedere se questo sarà possibile, no? Sì, in questi minuti, in realtà dalle 10, è in corso parallelamente a Madrid una riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri spagnolo avente appunto ad oggetto il referendum catalano. Siamo in attesa dei risultati della conferenza. Già stamattina però il ministro della sanità spagnolo Dolors Montserrat ha detto chiaramente che il dialogo con Carles Puigdemont, presidente catalano, si dà per chiuso e che dalla nuova in poi l'unico dialogo che spetterà a Puigdemont è quello con la giustizia. Quindi parole molto molto forti che hanno anticipato appunto l'inizio del Consiglio dei Ministri. La sensazione oggi è ancora gente in piazza come da qualche giorno a questa parte? Sì, per la verità oggi il centro di Barcellona è stato occupato da trattori. Trattori, quindi non trattori, studenti oggi ma trattori. Trattori che hanno occupato per la verità altre varie città catalane, hanno sfilato pacificamente qui per il centro di Barcellona. E un'altra notizia importante è che l'Agenzia Statale di Protezione dei Dati ha detto chiaramente che i cittadini che formeranno che formeranno i seggi elettorali potrebbero essere multati fino a 300.000 euro per violazione della legge organica di protezione dei dati. Grazie Mario, naturalmente tienici aggiornato perché insomma ormai manca davvero poco a questo referendum, ammesso che si terrà. Vi ricordo peraltro il nostro speciale, lo speciale di Radio 24 domenica sera dalle 21 alle 22, proprio per raccontare quella che di domenica, che sarà una giornata molto molto calda. Torniamo in Italia e parliamo di tutt'altro, parliamo di qualità dell'aria, perché oggi sono stati diffusi nuovi dati ed è stato fatto il punto su nuove possibili politiche. È di pochi giorni fa l'annuncio del governo cinese di imporre il divieto di produzione di veicoli a diesel e benzina per abbattere l'uso di fonti fossili entro il 2040. Contemporaneamente si fa sempre più lunga la lista di produttori d'auto che decidono di fabbricare solo auto ibride o elettriche. In prospettiva si può cominciare dunque a sperare, ma nel quotidiano i dati lasciano ancora senza troppo ottimismo. L'inquinamento atmosferico in Europa causa ogni anno la morte di 500.000 persone. Per quanto riguarda i livelli di PM10 biossido di azoto, più della metà degli stati membri, Italia compresa, è in procedura di infrazione. In Italia la situazione è certo migliorata, ma la qualità dell'aria resta sempre critica, soprattutto in alcune zone. Come sempre nella top 10 dei posti più inquinati c'è il bacino padano, l'area metropolitana di Roma, quella di Napoli, l'area del Frusinate, la Puglia e la costa sud-est della Sicilia. Dati contenuti nel report sulla qualità dell'aria presentato oggi alla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Sentiamo il presidente Edo Ronchi. Ci sono anche problemi nuovi che sono l'apporto di particolato della legna. Dei dati lo indicano come una fonte importante di emissione, questo uso esteso della legna e dei pellet in alcune aree. L'Italia ha bisogno di una strategia nazionale per la qualità dell'aria per incidere sulle politiche dei trasporti, sull'energia, sull'edilizia, leggi che riguardino il territorio anche per quanto concerne l'agricoltura, responsabile del 96% delle emissioni nazionali di ammoniaca che deriva da fertilizzanti e allevamenti e che, secondo i risultati di alcune indagini a Milano, contribuisce per il 35% dell'inquinamento da PM10. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci ritroviamo fra qualche minuto con le borse. Effetto giorno. Borse europee positive questa mattina, in rialzo nell'ultima seduta del mese. Sentiremo fra pochissimo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ve l'abbiamo già raccontata la cronaca di oggi con la richiesta di convalida dell'arresto per le quattro persone che ieri hanno protestato al quartiere Trullo, siamo a Roma, contro l'assegnazione di una casa popolare ad una famiglia scambiata per straniera. Allora, cerchiamo di capire un po' di più cosa è successo, ma soprattutto perché sta succedendo questo, e lo facciamo con Franco Mazzetto, direttore generale di ATER, che gestisce le case popolari a Roma. Buongiorno Mazzetto. Buongiorno a lei, buongiorno. Allora, intanto sgombriamo il campo da questa questione, perché insomma questa famiglia, non che la cosa cambi, ma insomma questa famiglia è una famiglia italiana. Quindi, ha detto bene, la cosa non cambia. Comunque non cambia nulla, perché chi ne ha diritto a prescindere dalla nazionalità. Però sì, insomma questa famiglia è italiana. Certamente, ha spaventato certamente la pelle nera di questa signora, quindi siamo proprio di fronte a un caso di razzismo. Poi, io credo di sì, dal nostro punto di vista, anche se fosse svedese, quindi con una pelle molto chiara e i capelli molto biondi, non faremo nessuna differenza. Le assegnazioni le fa il Comune di Roma. Però noi riteniamo che chi ha diritto alla casa deve riuscire a entrare nella casa che gli è stata assegnata. Assolutamente, però stamattina certamente i giornali titolano po' tutti la guerra dei poveri, perché al di là di queste quattro persone vicine a Forza Nuova arrestate, al di là insomma del disordini che stanno avvenendo ormai un po' troppo di frequente anche a Roma su questo tema, cos'è che non sta funzionando? Cioè le assegnazioni sono troppo lente, le assegnazioni non sono sufficienti, perché sta avvenendo questo? Forse mancano anche delle case, nel senso che quello che era un problema che qualcuno immaginava superato, insomma si pensava superato, invece sta scoppiando con una grande forza. L'emergenza abitativa a Roma in particolare credo sia un problema vero. Ecco, il Comune ha una lista di assegnazioni molto lunga e molti altri alloggi sono occupati, quindi è evidente che è un problema reale. È un problema reale che dal Comune come le dicono di affrontarlo? Insomma, ovviamente voi lavorerete in stretto contatto con il Comune. Prego. Noi siamo ovviamente una società della Regione Lazio e siamo proprietari di 50.000 alloggi su Roma. Il Comune non ha mi sembra ne abbia grosso modo la metà. Ecco, noi nel momento in cui abbiamo alloggi liberi li consegniamo al Comune e il Comune li assegna rapidamente. Non è che restano vuoti, perché no, a volte guardi, anche questo accade. Guardi, in questo caso specifico, per esempio, è stato rioccupato dopo 15 giorni, quindi può succedere in certe situazioni che per un breve periodo rimangono vuoti perché dobbiamo farci dei lavori. Il problema è che proprio non ci sono questi alloggi. Mi faccia capire un'altra cosa che mi ha particolarmente colpito. Allora, nelle dichiarazioni di questi giorni molti parlano di una indennità di occupazione abusiva, cioè le persone che non avrebbero diritto di stare in queste case in realtà vi pagano una sorta di affitto. A me questo sembra assurdo, perché se non ci devono stare devono uscire. Ma guardi, noi abbiamo oltre 1000, mi sembra 1100 sfratti presentati al Comune di Roma, che il Comune di Roma in questi anni non esegue. Alcuni sono lì da parecchio, da 4-5 anni. È un problema, credo che il Comune di Roma insieme alla Prefettura, insomma, devono valutare se dare mandato all'esecuzione di questi sfratti, e quindi si libererebbero ovviamente degli alloggi. E nel frattempo mettete il reddito, come si suol dire? Sì, devo dire la verità, quasi nessuno comunque ce lo paga, perché abbiamo una morosità in quei casi alta quasi del 60%. Quindi, insomma, sì, mettiamo a reddito, nel senso, per legge applichiamo un canone maggiorato rispetto a quello che è il canone che applichiamo normalmente a chi ha una casa assegnata. Ecco, tenga presente che in alcuni casi le case assegnate hanno un canone anche molto basso. Noi abbiamo ancora canoni di 7,5 euro mese. Certo, quindi un canone maggiorato per mettere, diciamo, al reddito nel frattempo, fino a che non avviene lo sfratto, che mi sembra di capire avviene con tempi molto, forse troppo lunghi, quindi questo è un altro punto dolente. Nel frattempo incassate l'indennità di occupazione abusiva, quando la incassate, perché ovviamente in pochissimi pagheranno. Mazzetto, grazie per averci chiarito un po' questa vicenda, la ringraziamo. A disposizione, arrivederci. Grazie. Tiriamo un po' il fiato, perché invece questa è una storia che ci è piaciuta molto, ma insomma di tutt'altro genere. Siamo in collegamento con Don Gerardo Giacometti. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Lei è un prete, ma possiamo dire che ha compiuto un piccolo miracolo nel suo paese, nel Trevigiano, Castello di Godego, giusto? Esattamente, esattamente, sì. Che miracolo ha compiuto? C'è stato un piccolo intervento al termine del 2015, dove per la prima volta noi abbiamo registrato un forte divario tra i nati e i morti. I morti, anche nel nostro paese, non era mai successo, superavano i nati, per cui la denatalità... Insomma, a Castello di Godego nascevano pochi bambini, e lei si è un po' arrabbiato l'anno scorso. Esattamente, facendo le considerazioni tra un anno e l'altro, ho detto, ma anche con i toni un po' umoristici del caso... Guardate, smettetela con i social, basta con la televisione e dedicatevi di sera ad attività più produttive. E sembrava un po' una battuta. Sembrava un po' una battuta. Invece poi battuta non è stata, perché evidentemente le persone della sua parrocchia la ascoltano. E in questi giorni è boom di nascite e di battesimi, è così? Sì, io il dato di cui dispongo è proprio quello dei battesimi, no? Noi in chiesa abbiamo questo piccolo tabellone dove mettiamo i nomi dei nuovi battezzati e ci siamo resi conto improvvisamente che non ci stavano più, per cui già a questo punto dell'anno è andato, 54 è andato cifra... a riprendersi la data in cui aveva detto quelle parole, si è fatto due conti e insomma ha funzionato. Sì, poi non so se siano le parole del parroco o altre coincidenze, ecco, al di là della battuta credo che ci sia anche un contesto che operano nella direzione della vita, e questo mi pare molto bello. Perché è così importante che Castello di Godego abbia un po' più di bambini? È importante innanzitutto come segno di speranza e di fiducia nei confronti della vita rispetto a quello che stiamo vivendo, no? Tutte le problematiche con cui anche una famiglia si misura influiscono un po' sulla visione del futuro, della vita, per cui che ci sia speranza è un dato bello, che vuol dire... rispetto a questa situazione se si mettono al mondo figli vuol dire che insomma le coppie hanno speranza nel futuro. Grazie, sì. Grazie a Don Gerardo Giacometti. Noi ci fermiamo, Strade in diretta, e poi ci risentiamo per i titoli.